Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci ritrovati con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Questa settimana apriamo gli argomenti e gli approfondimenti con l'avvocato Gioia Barbato. Bentornata. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, parliamo di abbonamenti voluti, non voluti, imposti, appioppati, insomma potremmo usare un po' di aggettivi per questa vicenda, no? Che riguarda cosa? Esatto, riguarda Sky principalmente. Dal momento che abbiamo ricevuto in associazione moltissime segnalazioni in merito alla difficoltà di disdire o comunque di modificare un abbonamento già in essere con la compagnia Sky. Ecco, nel caso specifico, se non ho letto male, c'era un abbonato che avrebbe voluto attivare un'opzione e invece gliene è stata attivata un'altra. Cos'è successo? Precisamente a questo abbonato che aveva in ballo un abbonamento Sky, dove era un abbonamento Sky composto da più pacchetti, e l'associato voleva disdire due di questi pacchetti che non erano più graditi, e Sky non ha operato la disdetta così come richiesta. Anzi, di tutta risposta Sky ha rilanciato, quindi oltre a mettergli in conto questi due pacchetti di cui lui non ha più usufruito, ha rilanciato attivando un terzo abbonamento, spacciandoglielo come gratuito, ma in realtà a pagamento. Quindi sostanzialmente il nostro associato si è trovato a corrispondere una quota per tre pacchetti Sky non voluti. Quindi, al posto di ottenere una revoca o una modifica parziale di quello che era l'abbonamento già in essere, si è trovato con un abbonamento ampliato di ben tre pacchetti, quindi con una quota mensile nettamente superiore rispetto a quella originariamente pattuita. A questo punto cosa ha fatto? Ha fatto una disdetta totale? Ha continuato a pagare? Cosa è successo? Come siete intervenuti voi? Una disdetta totale no, perché nel momento in cui uno disdice l'abbonamento Sky, a parte al fatto che incorre in certe penali che sono comunque contrattualmente previste, lui non voleva poi revocare in toto l'abbonamento, voleva solamente modificarlo e ridurre quelli che erano poi i pacchetti, quindi quelli che erano poi i servizi che venivano offerti. Quindi noi abbiamo agito con una lettera di diffida chiedendo a Sky di modificare l'abbonamento già in corso, quindi di revocare quei pacchetti di cui il socio non aveva più bisogno e di mantenere invece in essere l'abbonamento, quello generico, quello per poter usufruire di quei servizi, insomma, base. Basici. E Sky purtroppo allo stato dei fatti non ha risposto in modo soddisfacente, o meglio non ci ha risposto, ed ha applicato insomma il costo del servizio per l'intero pacchetto, quindi comprensivi anche quei due pacchetti non voluti più quel terzo che gli era stato addebitato a sua insaputa. Quindi noi adesso provvederemo con una seconda lettera di diffida e, in caso di risposta negativa, provvederemo a segnalare la condotta di Sky all'autorità garante per la concorrenza sul mercato, in maniera tale poi da fargli un esposto, insomma. Ecco, nel caso del pacchetto, quello che poi uno si ritrova a pagare è come in certe offerte di compagnie telefoniche o di altri casi, no? Che magari te lo offrono gratis per il primo mese, magari questa cosa è scritta microscopicamente da qualche parte, però è scritta, e su questo poi si appoggiano i gestori o le compagnie o le aziende, però poi dal secondo mese paghi anche il primo mese che non hai pagato. È funzionato un po' così. Esatto, è una sorta di truffa legalizzata, anche perché generalmente queste offerte prova, che vengono appunto offerte gratuitamente, vengono promozionate da un operatore telefonico generalmente, e quindi l'operatore non è che al telefono avverte l'utente che nel giro di 30 giorni, cioè scaduti 30 giorni poi il costo avrà un servizio, ma spazza il servizio come gratuito. Ti manderanno poi a casa magari una mail o una piccola brochure dove, come dicevi tu, sotto in piccolo, nelle condizioni di contratto, viene poi specificato che questo abbonamento ha comunque un costo, e posso dirti con tutta onestà che, vedendo anche tutti i casi che ci arrivano in associazione, solo il 10% degli utenti ha letto le clausole in piccolo e riesce tempestivamente a disdire l'abbonamento. Quindi noi la consideriamo una sorta di truffa legalizzata che dovrà finire, insomma, noi faremo di tutto per cercare, insomma, di modificare questo modus operandi di certe compagnie. Questo vale un po' per tutti, no? Perché ti mettono un prezzo evidentemente accattivante, anche apparentemente conveniente, un po' come pensando a prezzi più grossi, no? Quelli delle automobili, dove magari ampiamente sotto i 10.000 euro hai l'automobile, poi vai al concessionario e scopri che in realtà quel prezzo non esiste, perché in realtà sono 2, 3, 4.000 euro di più per una macchina, e ovviamente in proporzione in questo caso per un abbonamento TV. Anche su questo credo che bisognerebbe intervenire, nel senso che la pubblicità, che ovviamente deve essere fatta da parte delle aziende, dovrebbe essere più esplicita, certamente accattivante per catturare clienti, ma corretta. Esatto, sì, sono pienamente d'accordo. Purtroppo il problema di fondo è che la società in cui viviamo, tutte le pubblicità vengono proposte in maniera, tra virgolette, ingannevole. Cioè, come dicevi tu, sono accattivanti, però più che accattivanti, tante volte c'è anche, insomma, una parte in cui il consumatore viene un po' tratto in inganno, quindi diventano un po' degli specchietti per le allodole, ecco. Che consigli possiamo dare a chiunque voglia fare acquisti di questo tipo, cioè abbonamenti televisivi oppure abbonamenti in generale che abbiano poi anche una durata minima contrattuale, per cui credo si vada dai 12 ai 24 mesi? Beh, il consiglio che io posso dare è sempre quello, ovvero di leggere bene e di dedicare almeno un quarto d'ora a quelle che sono le condizioni contrattuali, che so che sono noiose perché generalmente ci propinano 10 pagine quando ci offrono uno di questi prodotti, però sono importantissime, e principalmente leggere le clausole relative alla clausola penale e quelle relative al recesso, anche per vedere quelli che sono i termini e le modalità per poi revocare l'abbonamento. E allora, un consiglio molto pratico che invitiamo tutti ad attuare, ringraziando l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico. Grazie, buona giornata, alla prossima. Grazie a te, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.